cosa mi aspetto da questo mondo? Almeno cosa mi chiedo se non sorrido? Da vivo l'aria che respiro non mi basta, da stare in piedi l'aria che mi assegni non mi va. Aspetto da questo vento, forse qualcosa mi porterà dal suo cammino, almeno cosa riempirò per calarmi, un sogno quanti ne perderò con un sospiro.